Con Sonia Remorini, Matteo Pantani e Mariano Viggiano, autori e registi dello spettacolo Guantanamo. Ben trovati. Ciao, ciao, Allora, vi alternerete nelle risposte. Intanto cominciamo presentando questo spettacolo. Ce lo descrivete? certo, allora, questo spettacolo è uno spettacolo d'inchiesta che racconta di Guantanamo, dei fatti accaduti a Guantanamo nella baia cubana, dentro la base militare americana, trasformata poi in carcere di detenzione illegale per presunti terroristi. Che non hanno neanche il diritto di essere processati. Un fatto che purtroppo non conosce tanta gente, ecco. Il nostro obiettivo quindi non è proprio di dare un giudizio, ma piuttosto ecco, di riportare i fatti accaduti, di scuotere un po' le coscienze, riportare come questo ha intaccato o non intaccato gli animi umani. Com'è nato il progetto? Dunque, il progetto è nato come all'interno del percorso accademico che abbiamo affrontato insieme, io, Sonia e Mariano, perché siamo tre allievi dell'Accademia Internazionale di Teatro e appunto come uno degli ultimi esami abbiamo deciso di portare una struttura originale di cui fossimo anche i registi e appunto ci è capitato per caso fra le mani una raccolta di testi. Di processi, alcune lettere originali che erano riuscite ad uscire dalla prigione di Guantanamo e quindi ci hanno interessato al punto che abbiamo cominciato a mettere insieme storie inventate che ci sono venute in mente a noi, questi fatti reali, ci siamo appunto, abbiamo approfondito l'indagine, abbiamo scoperto un libro di una giornalista americana molto importante, Ellen Ray, che è poi stata trasformata e romanzata in uno dei personaggi dello spettacolo, e quindi appunto abbiamo costruito in versione ovviamente teatrale, narrativa, quelle che poi in realtà sono storie vere o storie che sono state, che sono possibilmente davvero avvenute all'interno del carcere. E cosa vi ha maggiormente impressionato di queste lettere, di questi racconti? Innanzitutto che non c'era assolutamente comunicazione tra familiari e prigionieri in alcun modo e nessuno sapeva bene che cosa stava succedendo in generale all'interno di questo carcere che comunque è diciamo piuttosto illegale, Sì, beh, ecco. piuttosto illegale anche dal punto di vista proprio della gestione del prigioniero. Cioè, c'è stata poi tutta una serie di inchieste giornalistiche che hanno approfondito il fatto di come gli esseri umani venissero completamente snaturati all'interno del carcere di Guantanamo. Ci sono dei parallelismi con i campi di concentramento nazisti impressionanti, con l'unica differenza che oggi queste cose continuano ad accadere e non in mano a una nazione guidata da un folle, come potrebbe essere la Germania degli anni 40, ma sotto la più grande democrazia occidentale. E quindi appunto il modo di trattare gli esseri umani da parte di chi si riempie la bocca con idee di libertà, idee di uguaglianza e di giustizia, forse questa è stata una delle cose che più ci ha sconvolto nella lettura di questi documenti. Come avete pensato la messa in scena? La messa in scena è, diciamo, un intreccio, ecco, un intreccio di punti di vista, ecco. Ci sono vari personaggi che hanno punti di vista diversi, che si intrecciano uno nell'altro, formando un quadro, diciamo, generale su quanto è accaduto. Più storie, ecco, più punti di vista diversi. E la messa in scena è minimale, diciamo che non c'è grandi scenografie, anzi, usiamo semplicemente due cubi e si gioca con cambi di luce e musiche suggestive che ti portano nei diversi ambienti della vicenda. Ci parlate anche un po' dell'esperienza della compagnia Chivo Teatro? Sta, diciamo, avviando adesso perché questo è il primo grosso lavoro che stiamo presentando, anche perché appunto avendo finito l'Accademia a fine giugno, adesso questo è il primo momento in cui siamo riusciti a concentrarci davvero su qualcosa di grosso e di concreto. Appunto è nata all'interno dell'esperienza accademica e probabilmente è nata proprio in funzione della prima messa in scena all'interno dell'Accademia di Guantanamo. e ci siamo trovati incredibilmente bene a lavorare insieme e appunto speriamo che questo possa essere un primo passo in quella che poi è che quello che poi è un po' il nostro interesse, ovvero riportare il teatro a quella sua natura di fondamentale di forma di comunicazione, più che non di tutto quello che si può pensare oggi del teatro contemporaneo, il teatro moderno, dove tutto è incomprensibile o mentale. Noi siamo fortemente convinti che il teatro debba informare e coinvolgere, esattamente come ha fatto dall'inizio, da quando è nato come È arte. la sua funzione. È la sua funzione principale, appunto, proprio anche forse queste scelte minimali e di portare storie reali, non assolutamente astratte o comunque favolose, ci possa aiutare appunto come marchio di fabbrica della compagnia, se così possiamo dire, appunto a riportare il teatro a questa funzione, almeno a questa funzione che secondo noi, secondo la nostra idea è importante e utile in Ai questi tempi. fini sociali e Esatto. culturali, ecco. A Roma sarà una data unica. È previsto poi un percorso di questo spettacolo? Beh, sì, noi il nostro obiettivo in realtà è cercare di portarlo in più posti possibili, proprio per queste motivazioni dette adesso da Matteo, e cercheremo, ecco, di avviare un percorso di divulgazione. Di messa in scena anche magari in diverse regioni, perché no? Sì, dato che appunto sia noi registi che poi gli altri ragazzi attori dello spettacolo veniamo un po' da tutta Italia e quindi appunto Magari abbiamo la possibilità, ecco, di portarlo in giro, di farlo conoscere a più persone e poi perché no di tornare a Roma e replicare assolutamente, assolutamente sì. Allora, in chiusura ci lasciate dei riferimenti web per saperne di più su questo spettacolo e sulla compagnia in generale? Allora, purtroppo ancora noi una pagina web di qualsiasi tipo, blog o su Facebook o su Instagram o quel che è, non ce l'abbiamo, nostra personale, essendo nati praticamente adesso. Ok. Però grazie alla collaborazione che abbiamo insieme all'Associazione Nazionale Amicizia Italia Cuba, che ha finanziato il progetto e ci stanno molto aiutando e sostenendo in questo progetto. Ecco, magari tramite il loro sito lì potrete trovare informazioni più dettagliate. E allora ricordiamo lo spettacolo Guantanamo, errore di sistema. Un saluto e un ringraziamento a Sonia Remorini, Matteo Pantani e Mariano Viggiano, che sono autori e registi dello spettacolo. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, a presto, Ciao. grazie.